Osaka, gente strana, è una città malata. Oh, oh, c'è tanta gente che parla là fuori. Se quello di cui ci vi voglio parlare, di una classe per bene, anticriminale, tirata sulle gasate, telefilms americani stanno superando il numero dei normali cittadini. O oh, ormai sono diventati milioni, dovunque vai trovi in mezzo coglioni, cammini per strada e le calcagna come tanti ratti in cerca della fogna. Se sei con amici in giro a bere una birra, ma solo riunioni illegali da traccico va. Lasciatemi respirare, mi sento un animale. Raccato da cacciatore, hanno le divise blu, impugnano il manganello. Scarponi neri a piedi, scudo ed elmetto per mantenere l'ordine alla manifestazione. Ma sono loro i primi a far salire la tensione. E mi ritorna in mente un ricordo del passato. Sin da piccolo mi ci sono allenato. Ricordo quando insieme giocavamo nell'atrio. Tu volevi far la guardia, io preferivo fare il ladro. Il ladro, sì. Ormai va puttane, lo sei pure tu. Non lo salveranno certo le divise blu. Un così bel colore che ho imparato ad odiare. Non mettermelo davanti, mi sento male. Il mondo va puttane, lo sei pure tu. Forse è proprio colpa di quelle divise blu. Sempre al servizio di chi sta sopra di te. Difendi chi ti paga, non difendere me. Il primo sbirro ce l'ha in tasca e si chiama cellulare. Il secondo è sotto casa che ti vuole controllare. Il terzo e il quarto preparano un verbale, cercando un pretesto per poterti inculare. Non è cattiveri, sono picchi nascissi. Una divisa mi sacrira che dotone esiste tu. Ma ci pensai, sono un taffrontaisse. Meno stipendio, cura, dignità, tu ci rassasse. Rispetto a noi sarai sempre un gradino sotto. Carabiniere, finanziere, poliziotto. Povero illuso, succube e frustrato. Se pensi di combattere la mafia con lo Stato. La mafia vende quello che lo Stato compra. E non la puoi ammazzare perché è la sua stessa ombra. Se un cani mannarette metta musa e ruola, picchi sta parola vale chiura copissuola. Ermano va puttane, lo sei pure tu. Non lo salveranno certo le divise blu. Un così bel colore che ho imparato ad odiare. Non mettermelo davanti, mi sento male. Ermano va puttane, lo sei pure tu. Forse è proprio colpa di quelle divise blu. Sempre al servizio di chi sta sopra di te. Difendi chi ti paga, non difendere me. Sbirro, hai nascosto i tuoi complessi dietro quella divisa, non puoi farci fessi. Ti hanno consegnato un'arma, adesso sei qualcuno. Quando la tiri fuori non ti fotte nessuno, cazzate. Appena smonti dal lavoro sono lì dietro un angolo che ti aspetto nel buio. E allora vedremo se sei così uomo, così vero, così forte, così duro. Ti vedo da bambino messo in un angolo da solo. Niente amici, non ti volevano neanche loro. E adesso vuoi convincermi che sei qui per difendere me? Ok, vabbè, ma mi difende da te. Non siamo stupidi, sappiamo come vanno le cose. Difendi le loro regole, le loro logiche mafiose. Non puoi convincermi del tuo valore. Se penso dignità, vedo un ragazzo con in mano un estintore. Il mondo va a puttane, lo sei pure tu. Non lo salveranno certo le divise blu. Un così bel colore che ho imparato ad odiare. Non mettermelo davanti, mi sento male. Il mondo va a puttane, lo sei pure tu. Forse è proprio colpa di quelle divise blu. Sempre al servizio di chi sta sopra di te. Difendi chi ti paga, non difendere me. Il mondo va a puttane, lo sei pure tu. Salveranno certo le divise blu. Un così bel colore che ho imparato ad odiare. Non mettermelo davanti, mi sento male. Il mondo va a puttane, lo sei pure tu. Forse è proprio colpa di quelle divise blu. Se per servizio di chi sta sopra di te. Difendi chi ti paga, non difendere me, no. Yeah. Non difendere me, no. Yeah. Non difendere me, no, yeah. Non difendere me, no. The man, no. The man, no, yeah.